fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo il commento di Nato e compagnia della nostra amica... Come ti chiami? Ilenia. Ilenia? Da Monza, giusto? Da Monza, sì. E con le sue amiche, giusto? Sì, yes. Ok, vi presentate al microfono? Federica, Marta, Eleonora, Elisabetta. Bella, non so... E Carmen. E Carmen, giustamente, non giustamente. Nascosta. Chiara è fuori. Chiara è fuori, ma sempre in generale? Basta abbastanza. Sì. Abbastanza, abbastanza fuori. Parlate sempre al microfono se riuscite, che così almeno rimane. Sei sempre fuori. Ok, con chi ti sposi? Con Gianluca. Gianluca? Gianluca? Gianluca. Nell'intimità come lo chiami? Gian. Il Gian? Voi ragazze come lo chiamate nell'intimità, Gianluca? Oh Gian! Ah, oh Gian! Ah, oh Gian! Gianni! Ah, lo sapevi che... Ah, sei contenta? Si condivide con le amiche. Madonna, che altruismo incredibile. Anche tu, Carmen? È lì. Ok, allora, che cosa ti... Tutto in famiglia. Tutto in famiglia, è giusto? Ok. Che cosa ti ha colpito di Gianluca? C'è stato un momento, cioè, siamo in teleselezione per quello che... Sono solo 17 anni che stiamo insieme, quindi dovevo ricordare... Sì? Che cosa mi ha colpito? Ah, non ti viene più. Ma 17 anni, cioè lui sta tenendo duro in pratica? Sì. Cioè, non sei riuscita prima a convincerlo? No, no. Che cosa lo fermava? Chi lo sa? Ragazzi, cosa lo fermava Gianluca? Non lo sappiamo, ma secondo me non è che l'avrebbe fatto anche anni fa, probabilmente. Però nel mezzo c'è stato qualcosa di più importante. Hanno due bimbi, loro. Hanno già i bimbi. Ah, ok. No, allora dai, ha già fatto qualcosa di importante, però. Decisamente. Decisamente. Ma poi ha fatto una propostola. Come l'ha fatta? Dai, raccontacela. In gondola a Venezia con i nostri bambini. Ah. E mio figlio ci filmava. Ah, quindi i figli erano complici, tu non sapevi niente? Io non sapevo niente. No. E ha tirato fuori il gigillino? Esatto. E sì. Tu? Cioè... Gigillone! Ah, il gigillone? Ah, perché c'è il gigillone? No, ho visto gigillone. L'entusiasmo, è parente quella, è parente? È amica. Ah, è amica del Gian. Amica del Gian. Ok, quindi ha tirato fuori il gigillone? Esatto. E tu ti stavi capottando? Mi sono emozionata. E ti sei... Hai pianto? Lacrimuccia? Lacrimone. Ah, lacrimone. È tutt'one allora, praticamente. Cioè, è tutt'one con... Quindi con Gialluccone adesso. È un Gialluccone, ok, abbiamo un Gialluccone, un esemplare di Gialluccone. Vabbè, confermate ragazze, Gialluccone? Beh sì, Gialluccone. Sì, com'è fatto Gialluccone? Cioè, alto, magro? È alto, magro, è muscoloso. Ah, è muscoloso, ha proprio... Un bel bagai. Come si dice da noi. Come si dice? Un bel bagai? Sì. È un bel fio. E la Ile è una bella tusa. Ah, i due lì mi mettono l'ansia. Quei due lì? Sì. Diciamo che Gianluca non è esattamente come quei due. Però lancia baci, è un lancia baci quello, È innamorato. È innamorato? Della sposa? No, della mia amica, della mia testimone. La testimone qual è? È lei. È questa? Che si chiama? Elisabetta. Elisabetta fa stragi, guardate, che botta di fortuna, Elisabetta. Chiara ignara di tutto. Esatto, non sa che cosa ha alle spalle. Cioè, sembra quei filmati dove una nuota e c'ha dietro due squali, ecco. No, non ci sta, Chiara, non c'è verso. Ma è sempre così, davvero? Cioè... Sì, lei è così. Fantastica. È andata. Va bene, ma alla fine poi il gondoliere cosa ha fatto? Niente? Il gondoliere era complice. Sì? E niente, ha aspettato il momento in cui nel canale non c'era nessuno. Ok. E si è fermato in modo tale che Gianluca potesse prendere l'anello dalla tasca, mio figlio potesse mettersi in posizione per fare il video. E niente, si è goduto la scena il gondoliere. Ma tu non ti sei accorta quando lui è andato dal gondoliere a corromperlo? Perché il gondoliere complice mi stava spiegando, eravamo davanti al Teatro della Fenice a Venezia, mi stava spiegando come fanno i musicisti per portare gli strumenti a teatro quando devono fare una serata. Ok, e quindi c'è... E quindi io ero intenta ad ascoltare il gondoliere che mi spiegava come facevano a trasportare il pianoforte su una... diciamo un furgone barca. Ok. E mi stava spiegando come facevano a portarlo dentro. Mentre io guardavo l'entrata del teatro alla Fenice, ho visto del movimento attorno a me e ho capito subito. E poi, voi la sapevate la storia, ragazze? La sapevate? La sapevate no. tutte? Sì, no, sì, no. sì, c'è la un video. La ah, non la sapevo. Non sapevate? Ah no, prima no, non lo sapevamo. Prima di adesso? Cioè, no, prima no, di... no, lei non lo sapeva. Ah, l'avete saputo? Ah, ok, ok, cioè non eravate complici voi. No, okay. No, vabbè, no, guarda no, che no, migliora no. sempre di più le persone no, intorno alla vostra amica, eh. Sono della famiglia, la sorella qui presente. Lei sua sorella. Ah, la sorella Carmen? Ah, c'è la Carmen sorella allora. Ok, ok. Quindi viaggi di nozze dove? Madagascar con tutti gli animaletti, tutte le cose. E anche i bimbi. Ah, anche i bimbi vengono. È vero, è vero, cavolo, è vero, è vero. Voi niente, ragazze, eh? Niente. No, non te le porti le amiche? A sto punto porta tu anche il gondoliere, ti porti? No, il gondoliere sta in gondoletta. Ah, in gondoletta. Esatto. Ah, ok, ok. Va bene, ragazze, oggi cosa avete fatto? Che giornata avete passato? Impegnativa. Vediamo i legna. Alla sposa. Passano la parola a me. Che scherzi ti hanno fatto? No, niente, ho bevuto. Tutto il giorno? E mezzo del mattino. Ah, da stamattina, ma siete andate a prenderlo? Cioè, anche le. Funziona per le ragazze come coi ragazzi. Cioè, i ragazzi lo prendono a casa all'insaputa. Magari è lì che dorme in mutande, gli saltano tutti nel letto, robe violentissime. Ha fatto irruzione questa mattina a casa mia. Irruzione 8:30, ok. 8:15, sì. Destinazione? Destinazione Desenzano. Desenzano, siete arrivati. Mentre venivate vi fermavate negli autogrill a bere? Esatto. È successo. Ah, così proprio? Sì, ah, perfetto. Come i maschi allora. Esatto. Cazzo, siamo che dei maschi mancati. Ci è sfuggita di mano la storia nel primo pomeriggio e poi lei è stata male. Hai fatto il gettone? Alle 19 sì. Alle 19 sei crollata e sono hai. Crollata. Hai... Ho fatto l'esorcista. Perfetto, ecco. Fantastico. Ma vi siete andate tipo dove? Per Desenzano? Cioè, Siamo andati a mangiare a Desenzano. Sul lago. Sul lago, bello. Poi sono arrivate loro due perché loro lavoravano. Okay. Siamo andati a casa. Abbiamo affittato una piscina. E quindi siamo stati lì, abbiamo bevuto, vai in piscina, musica e via. Tutte cose così, sì. E via. Poi e domani? Domani? Cioè si torna a casa o... Domani facciamo ancora... C'è ancora, tutta sorpresa però. Poi tutta dopo sorpresa. Andiamo a casa. Ok. Ok, se hai paura? Non temere. Decisamente. Va bene, lasciamo la curiosità, ok? Va bene. Allora, volete salutare qualcuno a casa? Il mio futuro marito. Salutiamo il Gian, salutiamo, dai, salutiamo il Gian. Voi non ce l'avete, nessuno? No, cioè... io sì, io ce l'ho e ho tre bimbi. Ok. Quindi saluto Simone e i miei bimbi, Giovanni, Rachele e Achille. Oh? Io saluto Francesco, dai, a Ivrea. Che tira le arance, lui? No, non è un tira. Ah, no, tira i limoni, lui. Tira, che non tira. Tira i limoni, però. No, tira neanche quelli. Però l'anno prossimo ci proviamo. Va bene. Dico. Tu non saluti nessuno? Io saluto i miei pazienti. Ah, cioè, perché è dottoressa lei? Sì. Ah, ma tipo dottoressa di cosa? No, non si può dire, meglio non si può dire. Carmen, saluti qualcuno? Io saluto mia mamma perché sennò si offende che non la penso. Giustamente, brava, la mamma, sì. Un pensiero per la mamma sempre. Ciao, poi mamma. Io saluto mio marito e i miei tre bambini, Kevin, Samuele e Lia. Cioè, sono a tre andate, cioè. O tanti o niente, va bene, perfetto. Ok, va bene, saluti a tutti. Ciao Chiara! Ciao Chiara! Grandissime.